cantava le sue canzoni e si scriveva i testi sul diario per sentirli. Sembra buono anche il professore. Correva come un fuoco.